Oui, allô? Perdonami, amore mio. Perdonami per tutto il male che ti ho fatto. No, no, je ne peux plus te pardonner. Maintenant c'est trop tard. Tu m'as fait trop de mal. J'ai trop de peine à cause de toi. Credimi, cuore mio. Io non volevo far l'amore insieme a lei. No, non volevo. Perdonami. Lasciarmi. Non potrei vivere senza di te.